Dove sta lo passerello? Primavera coi mandorli di maggio e coi ciliegi in fiori, sull'albero fiorito tornava al vecchio nido lo passeriello ancora. Ricordo ogni mattina con il suo frullodale veniva il primo sole per farmi risvegliare e tutta la mia casa di festa mi riempiva e poi si addormentava al tramontare. Dove sta lo passeriello? Dove è andato chi lo sa? Cip cip cip cip cip cip cip, il cuore mi risponde chi mai lo sa. Forse in fondo a quella valle, o tra i boschi a cinguetta. Cip cip cip cip cip cip cip, il passerotto mio non tornerà. Ed ora è primavera, è ritornato maggio, coi mille più colori, sull'albero fiorito, però non è tornato, lo passeriello ancora, anche l'amore mio, dal giorno che è partito, un vuoto m'ha lasciato, per farmi sospirare, se guardo verso i monti, se guardo verso il mare, sento una stretta al cuore, il cuore mi risponde chi mai lo sa. Forse in fondo a quella valle o tra i boschi a cinguetta. Cip cip cip cip cip cip, come l'amore mio non tornerà.